rapidamente alla conclusione ed abbiamo questa mattina tre comunicazioni, rispettivamente quella del professor Mario Martini, ve li do nell'ordine, che è docente di Storia delle Dottrine Morali all'Università di Perugia. Il tema della sua comunicazione è il valore del silenzio in Cioran e Jabez. Poi abbiamo il professor Bruno Lauretano dell'Università di Napoli, di Salerno, nei pressi. Il tema della sua comunicazione è il linguaggio silenzioso. E poi abbiamo la comunicazione del dottor Maurizio Moncagatta, la poesia di Perugia, la poesia e il tempo del silenzio. Possiamo cominciare con la comunicazione del professor Lauretano dal tema, appunto, il linguaggio silenzioso. Cioè, io comincerei con un piccolo esorcismo iniziale, nel senso che sono un oratore a altissimo rischio, non leggo, e allora tutto dipende dal torpore o meno della giornata, cioè se ho le batterie scariche allora sono guai. Comunque questo è il bello della diretta. Aggiungo che Sapienti, specialmente negli ultimi tempi, ci hanno riproposto una problematica che già fu, diciamo, agitata da Platone: oralità e scrittura. Quindi si tratta di logiche diverse, quindi diciamo, non riesco a immaginare i miei ascoltatori come lettori, oppure come figure promiscue tra il lettore e l'ascoltatore. Aggiungo un'altra piccola premessa, un po' ironica. John Cage, mi pare, anni fa, ha tenuto il concerto del silenzio. Io ero stato tentato da un'idea ironica di questa specie, cioè dare come titolo silenzio, venire qua e consumare il tempo a mia disposizione, così con lo sguardo assente, in distanze remote. Oddio, poteva sembrare uno scherzo di cattivo genere, però ecco, secondo me era una performance di un certo interesse che mi poteva aiutare a sottolineare un punto che mi interessa molto, che poi è di un'ovvietà sconcertante, cioè che alla presenza del silenzio c'è un'intenzione comunicativa, cioè ciascuno di voi in quel caso avrebbe cercato di cogliere l'intenzione che sta cripto, intenzione comunicativa in quel mio silenzio assente. Comunque io ho rifiutato questo scherzo, l'ho scartato, e quindi parlerò del silenzio. Allora, la mia comunicazione, come verrà stampata, si articolerà in due parti. Una parte, diciamo così, più teoretica, che è quella appunto che vorrei un po' trattare stamattina, e una parte applicativa. Cioè, nella parte applicativa esaminerò tre casi o tre proposte di silenzio. Anzi, devo dire una cosa, che la problematica del silenzio, secondo me, si è venuta sviluppando su due fronti: il fronte religioso, e a proposito c'è un'opera molto stimolante che io non ho seguito tutte le scansioni e battute che studiavo, quindi può dare, ma che non ho sentito molto citare, che è di Van Buren, sulle frontiere del linguaggio, il linguaggio religioso come linguaggio al limite, linguaggio di frontiera. E poi c'è un fronte laico che secondo me è quasi completamente assente, e quindi io, diciamo, in un certo senso vorrò, in quell'occasione della comunicazione scritta, richiamerò l'attenzione su questo fronte: il silenzio di Cratilo, i silenzi di Flaubert, i silenzi stupefatti, la pietrificazione del linguaggio. Si è scritto molto, da Proust in poi, su questa tecnica, diciamo, della sospensione del discorso e della narrazione, questo rifiuto del romanzo in Flaubert. E poi il silenzio di Wittgenstein, specialmente in rapporto alla problematica, al problema, che secondo me è un falso problema, che è dei limiti del linguaggio. Comunque, detto questo, cerco di entrare nella parte che ho definito teoretica. Anzitutto, ancora che altro l'esorcismo, il discorso del silenzio sembra un discorso estremamente difficile, intricato, complesso, per vari ordini di ragione. C'è un primo tipo di possibile errore, aggiungerei una cosa, che il tono soffice ma polemico del mio discorso, si spiega non tanto il rapporto a un interlocutore reale, quanto il rapporto a un interlocutore immaginario, che forse è meno immaginario di quanto io dichiari, e sono io stesso. Cioè io ho scritto nel 1965, mi è apparso un mio articolo, Dialogo e silenzio, sottolineo la data, 1969, sulla cultura. Poi è stato ripubblicato, diciamo, 3-4 anni fa, con poche varianti. Però io, ecco, avrei dovuto riscriverlo da capo, cioè non sono più convinto di quello che dicevo allora e lo mostro oggi. In particolare, allora davo un'ampia tossografia, anche forse non molto nota in Italia, sulla problematica del silenzio, e poi da parte mia introducevo una distinzione tra silenzio vuoto e silenzio pieno. Ecco, il mio... rogetta la mia polemica, in particolare la nozione o la pseudo nozione di silenzio vuoto. Allora, notavo che sarà una problematica difficile, intricata, fastidiosa in certi casi, e ciò dipende da varie ragioni. La prima ragione, a mio giudizio, può consistere in questa, nell'assunzione del termine al singolare, il silenzio. Quindi ci sarebbero vari modi del discorso. E poi ci sarebbe il silenzio, questa specie di buco nero. Ora, e questo silenzio inteso come qualcosa di massiccio, più che massiccio, di uniforme, di monotono, di semplice, quindi meriterebbe, per chi ragiona in questo modo, appunto, una definizione. Poi la definizione del silenzio, una considerazione, la considerazione del silenzio. Quindi, in opposizione a questo possibile modo di male intendere, o meglio, di male porre la problematica del silenzio, ben vengono appunto che le posizioni che invece pongono l'accento sulla varia articolata fenomenologia del silenzio, sui vari livelli, sulle varie modalità. Connessa a questa difficoltà che ci arrivo un momento fa, c'è, non è un'altra difficoltà, è la stessa formulata in un altro modo, è della polisemia del termine silenzio. Anzi, io tra poco passerò in rassegna alcune concezioni del silenzio, alcune possibili concezioni del silenzio, alcuni modi di intendere il silenzio, ma in realtà se andiamo a vedere si tratta, non si tratta di concezioni in opposizione, in conflitto tra di loro, perché non sono altro che stipulazioni terminologiche, cioè sono diversi modi di usare il termine silenzio. Cioè la questione è innanzitutto una questione terminologica, e questo aspetto non va sottovalutato, non va trascurato. Esistono vari modi di concepire il silenzio, cioè vari modi di usare il termine silenzio, e vedremo tra poco quali. Un altro ordine di difficoltà, che secondo me rende intricato e complesso questo problema, consiste in un particolare intreccio tra due modi diversi di considerare il silenzio, e questo intreccio di due modi crea quello che definisco una permanente ambiguità. Da una parte il silenzio inteso come un non dire, dall'altra parte il silenzio inteso come indicibile. Non è la stessa cosa. Infatti posso immaginare da un lato di dire il non dire e da un altro lato di non dire il dicibile. Quindi è opportuno, a livello di analisi, mi sembra opportuno che si tengano distinti questi due livelli di discorso sul silenzio. Un'altra difficoltà ancora, che consiste in ciò che definisco la mancanza di portata interrogativa. C'è una fallacia che consiste molte volte nel trasformare una domanda, un'interrogazione in un'asserzione. Per cui, invece di chiedersi pregiudizialmente c'è il silenzio, si parte per la tangente e si dice il silenzio è. Gran parte ecco il motivo per cui io considero questo mio minuscolo contributo teoretico al problema del silenzio, non tanto un discorso sul problema del silenzio, quanto un discorso di secondo livello, sul problema del silenzio. Quindi io restituirei tutto lo spessore all'interrogazione, c'è il silenzio, e ammesso che ci sia, sempre virgolettando molto, che tipo di roba è. Quindi, e aggiungo questo, che gli avventurosi che si avviano subito a parlare del silenzio senza porsi il problema del pregiudiziale, del appunto che si forma la domanda, si dà il silenzio, poi finiscono via facendo con l'inghiottire la premessa, cioè che la presupposizione fallace iniziale, il silenzio comunque si dà, viene attraverso una serie di riformulazioni via facendo, viene di fatto poi perduta lungo la strada, viene inghiottita, e quindi quasi tutti i discorsi sul silenzio, che sono felici di ciò, in realtà sono discorsi non sul silenzio, come altro dal dire, ma discorsi sul discorso, cioè discorsi sul dire. Quindi ci può essere qualcuno che è incerto sul fatto che ci sia il silenzio. Non possiamo essere incerti sul fatto che c'è un discorrere del silenzio. Allora, la cosa veramente certa è che c'è il problema del silenzio. Comunque in filosofia ci sono, in molti casi, problemi anche su un certo che non sembra stato sufficientemente definito. Un'altra difficoltà, e questa è una difficoltà, diciamo così, proprio sulla pelle, come dici, sensazione, e che definirei la retorica del silenzio. Cioè, si tratti di discorsi che definisco gonfi, cattivanti, pieni di sovrattoni emotivi, è difficile resistere al fascino di questi discorsi. E quindi questo finisce con l'imbrogliare ancora di più le carte. Allora, a questo punto... Quanto c'ho ancora? 10 minuti. 10 minuti. Ecco, a questo punto, sempre... cavalcando, farei un po' la rassegna di alcuni modi di concepire il silenzio. Ripeto che le dicevo un momento fa, che in molti casi posso dare anche i referenti, quest'autore qua, quello là, eccetera, ma mi interessa molto di più di immaginare dei modi di concepirlo, cioè alcuni di questi modi di concepire può darsi che non abbiano grosse bibliografie, però ciò non esclude che siano modi di concepire il silenzio. Ecco, un primo modo di concepire il silenzio che mi atterrisce, che rifiuto, proprio in un modo, è quello del silenzio come vuoto. Ecco, in questo senso sono l'interlocutore polemico di me stesso, cioè il silenzio come vuoto, come risucchio, come buco nero, dico, in qualche caso. E quindi come una modalità alternativa al dire, come altro dal dire. E qua dichiaro già, comincio a scoprire un po' le mie carte. Cioè, il punto su cui poi, a cui vorrei arrivare è questo. Non il silenzio come altro dal dire, ma invece come altro dire, come eteron, è in fondo la problematica del nulla, come è posta in un modo geniale, in quel dialogo geniale che è il sofista di Platone, e appunto in cui c'è una risoluzione, in qualche misura, il concetto del non essere nel concetto di altro, che a molti traduttori preferisco tradurre il diverso, e la problematica poi attraverso vie strane, vie proprie, viene in qualche misura ripresa poi da qualche parte a Bergson. Ora, ritengo questo proprio il modo bieco di concepire il silenzio come vuoto, e bieco e che crea grossissime difficoltà, innanzitutto sulla dicibilità di una cosa del genere. Cioè, se il silenzio inteso in questo modo lo si considera dicibile, e allora è risolto nel dire. Se lo si considera realmente indicibile, e allora non si capisce come si possa parlare di esso. Quindi porre la questione del silenzio in questi termini, del silenzio vuoto, secondo me, ecco, e lo dico a me stesso con molta cattiveria, a me stesso di allora, è proprio avviarsi su una strada che non porta a nessuna parte, cioè è chiaramente uno pseudo problema, un problema che tutti i falsi problemi, attraverso una serie di perlustrazioni semantiche, poi si fonde, si squaglia, diciamo noi, con un termine meridionale. C'è un altro modo di concepire il silenzio, più forse inquietante, più gustoso, è il silenzio come comunicazione apparente. È stata coniata anni fa l'espressione il monologo mascherato. Ci stanno delle ricerche, c'è in sala qualche grosso studioso di Piaget, alcuni studi di Piaget, non ho pensato proprio a Piaget, veramente, ma mi è venuta un po' l'idea che sta sul linguaggio egocentrico, no? È stata tutta una disamina, Piaget, Vygotsky su questa problematica. C'è un modo di comunicare che poi è un modo apparente di comunicare. E quindi posso immaginare una considerazione del silenzio appunto come modo apparente di comunicare. C'è un'altra possibile concezione del silenzio, e già stiamo un po' al positivo, non più il silenzio, quello che mi atterrisce come buco, come vuoto, ma come qualcosa della comunicazione, la comunicazione, e il silenzio come comunicazione perversa. Ecco, per esempio, c'è una problematica che sto gustando, almeno dentro di me, da molto tempo, e su cui vorrò scrivere anche qualche cosa, qualche volta, la problematica della comunicazione fallace, della menzogna. Ci stanno studi di psicopatologia molto affascinanti, non tanto sulla menzogna, ma su cose che possono essere utilizzate ai fini della problematica della menzogna. Dalla menzogna non si esce. Cioè, i giochi psicopatologici sono dei giochi i quali contengono tutte le regole, ma non le regole per uscire dal gioco. La menzogna è un gioco di questa specie, come si dice in gergo, una vita senza fine. Cioè, non c'è la regola per uscire dalla menzogna. Nel momento in cui ho l'impressione, ho la certezza che di trovare di fronte a un mentitore, anche se il mentitore dice, guarda, a partire dalle 8:25 di questa sera io non mentirò più, io includo questa sua dichiarazione all'interno di una logica della menzogna. E quindi allora è una comunicazione silenziosa, la comunicazione fallace. C'è un'altra modalità, cioè un'altra possibile considerazione del silenzio, che potremmo dire quella della comunicazione interdetta, vietata. Ci sono notazioni affascinanti, straordinarie di Foucault a questo proposito. Cioè, Foucault ha messo l'accento sui meccanismi di controllo, sono sue parole, selezione, organizzazione, cui è sottoposta nella nostra società la produzione del discorso. Cioè, il discorso già gorge, in fondo lo dicevo, no? Cioè, mettiamo in rilievo, il potere della parola. Il discorso fa paura, e allora deve essere esorcizzato, deve essere tenuto sotto controllo. E Foucault pone l'accento su tre tipi o classi di procedure, su tre tipi di procedure. Che le procedure di esclusione, l'interdetto, la partizione, la volontà di verità. Poi le procedure di controllo interno al discorso e poi le procedure di controllo che, dice lui, agiscono direttamente sui parlanti. C'è ancora un'altra possibile e molto interessante considerazione del silenzio, il silenzio come stacco in una dialettica di pieni e di vuoti, di parole appunto e silenzi. La parola si staglia sul silenzio e il silenzio a sua volta, come ho sentito pure l'altra sera o ieri sera dire o ripetere in questa sede, il silenzio acquista valore in rapporto alla parola. Qua veramente si potrebbe portare una dossografia sterminata a partire da Humboldt. Il discorso si situa al limite tra l'espresso e il non espresso. Suo scopo e suo fine sono quelli di spingere questo limite sempre un poco più lontano. C'è tutta una problematica in questo senso. Io stesso, a livello di un dialogo, se volete un'intervista abbastanza recente a Gadamer, sono ritornato su questa problematica e la problematica appunto del non enunciato. La problematica del non enunciato. E poi potrei portare ancora un'altra dossografia, Jolivet, Merleau-Ponty, Sciacca, su questo aspetto. Quindi, da questo punto di vista, il discorso ha carattere articolato, è un intreccio di luce e di ombre, è articolato, quindi diviso in parcelle di discorso, e tra una parcella e l'altra c'è lo stacco che sarebbe dato appunto al silenzio, quindi è un treccio di luce e di ombre. Ora, ecco, vorrei ricordare una cosa che è per motivi di affetto. Un contributo a questa problematica l'ha portato tempo fa, in qualche misura, pensando a tutte altre cose, spirito di cui si è parlato tanto nei giorni scorsi. Io, in anni lontani, ho fatto professionalmente proprio all'Università di Roma un calogero di spirito, e quindi scrisse questo articolo sul giornale della filosofia italiana, intitolato L'esperienza di me, un articolo di cui Spirito stesso ha sempre sottovalutato l'importanza, e glielo feci notare, perché introduce una distinzione tra la parola che si pronuncia e la parola pronunziata, che secondo me è una riformulazione geniale dell'attualismo in termini semiotici. La parola che si pronuncia, ecco, si staglia, per dire così, si è quello che è in rapporto alla parola pronunziata. Oppure, volendo ritornare al nostro problema del silenzio, alla parola che non si pronuncia. Ora, quello che mi interessa, il punto su cui mi interessa porre l'accento, perché mi avvicina poi alla mia posizione, è questo, che bisogna bene intendersi su quello che vuol dire pausa, il silenzio come pausa del discorso, come stacco, come interruzione del discorso. La metafora dell'interruzione è una metafora, può essere divertente, ma può essere anche pericolosa, perché può dare l'impressione che il discorso è una specie di groviera con dei buchi, ecco i famosi buchi neri. E il mio punto di vista è che invece il discorso sia che l'essere, per dire così, in termini che uso con timore e tremore, che non uso mai, sinceramente, sia tutto pieno, non una groviera. E che all'interno di questo continuum della comunicazione, perché l'essere che parlo io poi è l'essere e la comunicazione, il farsi della comunicazione, non ci sono stacchi, nel senso di buchi, ci sono dei passaggi, dei cambiamenti di marcia. La metafora probabilmente è stata usata da Proust a proposito di Flaubert. C'è un cambio di marcia, c'è il passaggio da un gioco linguistico a un altro, da una modalità del discorso a un altro, da un sistema di significazione all'altro. Il titolo di questo mio conversare, in fondo, non è inventato da me, non mi piace nemmeno molto, ma l'ho messo là un po', diciamo, emblematicamente, il titolo di un'opera che non ho sentito ricordare, famosa, di Hall, il pontefice massimo della prossemica, che il linguaggio silenzioso è il linguaggio del comportamento. E c'è da dire una cosa, che gruppi di psicopatologi della comunicazione hanno posto come assioma, usano proprio il termine assioma, uno degli assiomi della comunicazione si è trovato in questo: non si dà non comunicazione. Ogni comunicazione, ogni tentativo di non comunicare è inghiottito dal fatto che si comunica di non voler comunicare. E questo è, credo, che è chiamato il dilemma schizofrenico. Secondo questi psicopatologi, ogni comportamento è comunicativo e non si può supporre un non comportamento. Ora, ritornando al discorso di prima, quindi la concezione del silenzio come stacco nella comunicazione, in una dialettica, come dicevo prima, di ombre e di luci, va, ma fino a un certo punto, con opportune cautele, nel senso che non deve essere inteso questo stacco come un buco in un continuum comunicativo. Invece io vedo, ecco, un termine che è entrato nella moda a un certo livello della cultura italiana da alcuni anni, quello di transito, cioè il passaggio da una forma comunicativa a un'altra. E quindi quel mio stare inebetito e muto non sarebbe stato un buco nella sala, sarebbe stato inteso da voi, presumo, come il portato di un'intenzione comunicativa, cioè come un altro comunicare. In qualche caso io stesso ho usato o sto usando delle metafore per intendere quello che voglio dire. Io voglio dire che la comunicazione è un continuum, che si danno sì all'interno di questo continuum dei passaggi da una modalità all'altra, come dicevo prima, da un gioco linguistico all'altro. Ma questi passaggi non sono sotto vuoto, non presuppongono vuoto, si danno semmai dei momenti di, per dire così, rarefazione comunicativa, ma c'è comunicazione, cioè non so se è chiaro, cioè lo spessore comunicativo si è assottigliato e questo dà l'impressione a qualcuno che ci troviamo di fronte al vuoto della comunicazione. Ma insisto però su questo punto, che poi rappresenta per me una convinzione che porto nella carne, appunto, che la comunicazione è un continuum, cioè che la realtà è un continuum. Vediamo che altra piccola battuta, c'è ancora qualche minutino e chiudo. Sei fuori, ma... Ecco, mi accanto. Quindi, qua me la piglio un po', quello che chiamo la logica statica, la logica, scusate se uso un'espressione molto bella, di Wittgenstein usata per tutti gli altri motivi, ma che mi sta bene, la logica degli stati di cose, o delle unità discrete. Questa logica statica ci ha fatto pensare che forse può anche essere buona a certi fini. E una logica statica che secondo me è conseguente a un certo tipo di linguaggio. Il linguaggio è un linguaggio articolato, le unità del linguaggio sono articolate e in base appunto a una specie di superstizione magica noi riteniamo che le cose nel mondo siano il corrispettivo delle cose nel linguaggio. Siccome il linguaggio è articolato, e allora e pensiamo che tra una particella e l'altra ci sia il buco, ci sia il vuoto, quindi siamo portati anche a considerare gli stati di cose come separati da frange nere, da margini vuoti. Ora, secondo me, il rischio di considerare il silenzio come stacco e come buco nero e come vuoto dipende appunto da quel tipo di logica, dal tipo di logica statica che non ci fa, che ci rende ciechi invece agli effetti di continuità. I vuoti di questo tipo, di questo modo di concepire, in realtà sono vuoti apparenti, diciamo, che sono riempiti da altre modalità comunicative. E quindi allora, con questo voglio chiudere, perché il discorso potrebbe andare avanti, ma non voglio assolutamente approfittare più di tanto la vostra pazienza, ecco, la mia idea, che continuo a dire, un'idea che mi sembra di un'ovvietà sconcertante, è appunto quella di o a un certo punto proprio tengo opportuno di sfarsi il termine silenzio, oppure se lo si vuole adoperare sempre con alcune, con una circospetta prudenza, ecco, vedere il silenzio in un'ottica dei modi di dire, in questo continuum della comunicazione, volendo ripigliare, diciamo così, in qualche motivo di una metafisica forse tradizionale da cui rifuggo, diciamo, non come voce del nulla, ma il silenzio come voce dell'essere, di un essere che non ha una sola voce, che non è univoco, ma che ha molte, molte voci, che ha molti livelli di dire, molti modi di dire, e quindi il silenzio potrebbe stare a rappresentare in questa cornice il passaggio da un modo all'altro. E a questo punto la mia comunicazione, non diciamo che si chiude, si interrompe, e forse il resto è comunicazione, ciò che non dico, il resto è silenzio. Grazie. Ringraziamo il professor Lauretano per questa fenomenologia della dimensione orizzontale del silenzio. Il professor Lauretano, non l'ho detto in apertura, ha, sin dagli anni 60, come ha ricordato, si è interessato alla tematica del silenzio, e questo suo articolo è stato ripubblicato insieme ad altri che hanno molti punti di contatto sempre con il tema del silenzio, dell'ascolto, della parola, in un bel libro che credo sia uscito nell'84 e che ha come titolo Eteros l'altro. Ed è un libro in cui si possono ricavare notevoli riflessioni di grande spessore, di grande interesse, notevoli riflessioni sul tema del silenzio.